di accettato di questa presentazione. Sono particolarmente contenta di avere qui vicino a me Hans Heiss e naturalmente Andrea Bonoldi. Hans Heiss perché appunto è stato, insomma, e sarà ancora l'archivista dell'archivio provinciale dove diciamo io ho cominciato a lavorare sulla documentazione tedesca, per cui per me è particolarmente un onore di averlo qui a presentarmi e con queste parole lusinghiere ti ringrazio particolarmente. Andrea Bonoldi, lo ringrazio anche lui naturalmente per la bella presentazione che mi ha fatto e credo che sia riuscito ad entrare proprio in dettaglio, a spiegare molto chiaramente quali sono gli aspetti principali che il libro ha toccato. E mi fa piacere particolarmente che lui sia qui perché appunto anche lui ho avuto modo di conoscerlo all'Archivio Provinciale a Bolzano quando lui portava al suo termine i suoi studi sulle fiere di Bolzano, io cominciavo il mio lavoro di ricerca del dottorato, per cui per me è una sorta di coronamento, diciamo, di un periodo di lavoro che è durato qualche anno. E volevo a questo punto, insomma, ringraziare voi che siete intervenuti. Volevo anche segnalarvi che se qualcuno fosse interessato al libro, qui ne abbiamo alcune copie, eventualmente potete chiedere a me, insomma, alla fine. E vorrei a questo punto dare anche spazio alle domande, se voleste intervenire, porre qualche questione in merito a quello, insomma, che avete sentito. Sentitevi liberi, insomma, di... sì, di... Naturalmente sono anche cose molto specialistiche, molto tecniche, magari risulta un po'... Sono tanti gli argomenti che sono stati messi, diciamo, sul piatto questa sera. Quello che è importante sottolineare, credo io, è come in realtà questo tipo di libro, questo tipo di ricerca mostri come studiando due tradizioni storiche, due filoni di studi storici, come quello diciamo, di area italiana e di area tedesca e trentino-tirolese, emergano molti aspetti che se studiate appunto questi contesti solo nell'ambito specialistico degli studi diciamo, di area veneta e di quelli degli studi di area trentino-tirolese non si riescano poi a ricostruire quanto complessi e quanto ricchi fossero le relazioni tra questi due mondi in antico regime, relazioni particolarmente proficue nell'ambito appunto di questi commerci che venivano praticati lungo le vie fluviali che collegavano direttamente diciamo, i boschi e la montagna trentino-tirolese alle città venete, che erano città di grandi dimensioni da un punto di vista demografico, che hanno appunto sempre richiesto grandi quantitativi di legname che sono stati inviati appunto dal retroterra alpino verso la pianura sin dal 200. Sono delle relazioni d'affari che si protraggono per tutti i secoli dell'antico regime e ancora nell'Ottocento ci sono testimonianze appunto di pubblicazioni della Camera di Commercio di Bolzano che appunto spiega come i commerci nell'Ottocento tra area diciamo tirolese e area veneta favoriscano appunto tutta una serie di rapporti economici che poi vengono e di commercializzazione di legnami che hanno un ampio bacino di esportazione. Per cui ancora nell'Ottocento sappiamo appunto che le risorse forestali provenienti da questi distretti venivano poi commercializzate a Malta, a Napoli, nelle Puglie, in Egitto, in Grecia. Per cui dobbiamo pensare a questi, diciamo, alle risorse che provenivano da questi distretti come appunto a un grande patrimonio forestale depauperato sicuramente poi da questo sfruttamento molto aggressivo, ma anche come un mezzo di collegamento tra le comunità alpine e poi i mercati urbani. Per cui questi imprenditori, diciamo, del legname assicurarono per secoli i rapporti tra le città e la montagna, per cui sono al contempo degli importatori di cereali, sono degli importatori di tessuti, sono degli importatori di olio, di libri, di cere, per cui grazie appunto alla possibilità economica di commercializzare le proprie risorse, la montagna, come è stato detto e ripetuto più volte, è unita, diciamo, alle città della pianura grazie proprio alle proprie risorse. Lascio a questo punto la parola. No. Se c'è la possibilità, se c'è voglia. Venezia basava su palafitti, su insieme e dopo con dentro terra, tutte queste cose. Il legname, ma per, diciamo, più importato, più adoperato, qual era? Tra l'arice e queste cose così. Per questo tipo di lavoro, diciamo, il materiale utilizzato era il larice e l'abete rosso, che erano le materie prime più pregiate, anche per la resistenza, perché una volta che venivano conficcate nel terreno, grazie appunto all'acqua salsa, all'acqua con il sale, si creava tutta una sorta di protezione intorno al tronco che poi proteggeva la parte centrale, per cui avevano una resistenza incredibile, insomma, è questo il tipo di essenza che veniva usata. Per cui da queste valli, come ha ricordato anche Hans Heiss, abbiamo una produzione soprattutto di conifera, per cui abbiamo l'abete bianco, l'abete rosso, il larice e poi invece come legna da ardere abbiamo il faggio. Da queste regioni, naturalmente anche per ragioni climatiche, non è escluso il rovere, per cui la Repubblica Veneta aveva proprio dei boschi riservati, per cui dalla montagna Trentino-Tirolese abbiamo soprattutto essenza di conifera. Quanti abeti, quanti, non so adesso cosa sono fatte, che sono migliaia Certo, sì, sono. signora città per i fondamenti, i palazzi, tutto quanto, anche per le lagune di Venezia, contiamo che oggi, adesso naturalmente sono sostituito del cemento, ma la piccola è praticamente Sì, serviva per la manutenzione della città, per l'arsenale come è stato ricordato, per le vetrerie di Murano come combustibile, per la zecca naturalmente anche come combustibile per la fusione dei metalli, poi per la coniazione delle monete. Per cui diciamo Venezia era un grosso centro di raccolta, però allo stesso modo era anche un grosso centro di redistribuzione. Naturalmente poi c'è il problema di quantificare, perché per la documentazione che ho usato io, quindi partendo dai documenti istituzionali tirolesi, si riesce a misurare il gettito e quindi mettere a confronto i flussi delle quantità di legname in uscita dalla montagna verso la pianura. Poi in realtà è difficile invece ricostruire, ad esempio, la quantità di legname che arriva fino a Venezia, quella invece che si ferma magari prima nelle altre città. anche perché il contrabbando comunque Sì, anche perché il contrabbando era un'attività molto praticata, anche se in realtà il legname non è una cosa che si nasconde molto facilmente, in realtà era una delle cose più comuni, nel senso che vari erano i metodi di contrabbando. Quello più usato era quello appunto di ingraziarsi i dazieri, quindi lasciare loro qualcosa perché si girassero dall'altra parte, ecco, diciamo. Posso fare una domanda? Sì, prego. Sì, ecco. Allora, anche per esperienza personale, una delle cose che ci sono quando si finisce di scrivere un libro è da un lato la soddisfazione di aver chiuso al lavoro, dall'altro in realtà delle curiosità che si aprono. Lavorando uno dice, ma se potessi andare avanti, scriverei di questo e quest'altro. Quali sono le curiosità che ti sono nate scrivendo un libro e che magari, adesso so che stai facendo altro, ma che magari in un futuro ti piacerebbe approfondire? Allora, questo libro, appunto, come mi è già capitato di dire, più che chiudere un capitolo di ricerca, apre tanti capitoli di ricerca. Da un lato, come si parlava prima anche con Hans Heiss, voglio dire, la storia, diciamo, del XVII secolo dell'area trentino-tirolese è stata, non è così praticata come bisognerebbe, come meriterebbe. Da questo libro mi sono nati tutta una serie di curiosità e di interessi. Io mi sono occupata principalmente dell'asta Cismon e dell'asta del Brenta. Penso che sia fondamentale poter studiare l'asta dell'Adige, confrontare queste due vie fluviali per mettere a confronto i traffici su queste due aste, potendo studiare anche il Piave, meriterebbe. E uno secondo aspetto che secondo me è estremamente importante, appunto come si diceva prima, quello dei mercati di sbocco, quindi studiare, diciamo, il collegamento della regione diciamo, del nord-est, come viene definito adesso, con i bacini del Mediterraneo, quindi poter studiare i commerci lungo le direttrici navali, diciamo, del bacino di Mediterraneo. Un altro aspetto, prima il sindaco ha parlato appunto dell'importanza della presenza dell'imprenditoria veneta, del patriziato veneziano nei distretti della montagna trentina e tirolese. Diciamo che è una presenza che qui naturalmente noi abbiamo rilevato perché siamo qui, però diciamo La presenza del capitale veneziano non è una presenza che si limita al retroterra trentino-tirolese. Esempi simili ci sono altrettanti nella Carinzia, nella Valle della Gail, nella Valle della Drava. Sono stati fatti appunto altri studi per cui diciamo il capitalismo veneziano molto aggressivo agli inizi del Seicento controlla anche la Camera Arciducale di Graz, per cui i sovrani di Graz sono legati a questi noti mercanti come i Bontempelli del Calice, per appunto, che esercitano un po' lo stesso ruolo che i Fugger hanno avuto nel Tirolo cinquecentesco. Come ti dicevo, appunto, ci sono tante cose che varrebbe la pena e meriterebbe poter approfondire. Adesso, come ben sai, insomma, stiamo studiando la presenza del mondo mercantile trentino e veneto a Venezia nei protocolli dei notai veneziani, e da questi documenti, insomma, stanno emergendo cose di notevole interesse che spero di poter portare, insomma, di poter approfondire, che possano diventare anche in futuro eventualmente un'altra pubblicazione. Abbiamo le persone che poi partecipano, tornano a prendere in prestito i libri e approfondiscono anche gli argomenti. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima iniziativa. Grazie a voi, arrivederci.